Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. E una santa festa dei santi a tutti. Ecco, mi permettete, oggi siamo alla vigilia della festa di tutti i santi, quindi stiamo alla vigilia di Halloween. Ecco, quindi vigilia dei santi, non la vigilia di Halloween. Ecco, mi raccomando. A tutti, io l'anno scorso ho fatto un intervento su Radio Buon Consiglio che credo andrà in replica e a quanto mi è arrivato un post su Facebook, mi raccomando se possibile di ascoltarlo domani mattina alle 8:50 sulle frequenze della radio. Quindi rimando quanto ho detto l'anno scorso e esortando tutti voi ragazzi a boicottare questa satanica festa e soprattutto ad andare fieri dei nostri carissimi santi, ecco, se Dio vuole, perdonatemi, insomma, anche nella giornata di giovedì la radio trasmetterà un intervento che ho fatto dove si parla, insomma, della bellezza dei nostri santi, ecco, e di quanto noi dobbiamo essere orgogliosi, santamente orgogliosi e felici di essere membri della Chiesa Cattolica e di avere la possibilità e l'accesso, ecco, alla santità. Possiamo diventare santi anche noi, caro fratellino mio che mi stai ascoltando, e sarebbe la cosa più bella che possa succedere in qualunque stato di vita. Ora ricorderete che stiamo affrontando lo splendido tema dei 10 comandamenti e oggi cominciamo a entrare un pochino nell'argomento dopo le prime due puntate che sono state necessariamente introduttorie. E quindi cominciamo come dire, a renderci conto di cosa sia il primo comandamento, no? Se io vi dovessi chiedere a bruciapelo, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me, cosa significa? Vabbè, certamente uno potrebbe dire che non so, i pagani dell'antichità erano idolatri, quindi se uno rende un culto a Giove, a Saturno o a Marte, insomma, chi sicuramente commette peccato di idolatria. Ecco, però questo vedremo è un po' poco, quindi dobbiamo un attimo verificare e comprendere un pochino lo spettro, ecco, di azione di questo comandamento. Vi ricordo sempre le premesse da cui siamo partiti. Un comandamento, ogni comandamento, ha innanzitutto un valore positivo da trasmettere. Abbiamo visto la volta scorsa la prima parte, no? Io sono il Signore, vi rimando alla puntata precedente, tuo Dio. Quindi, se io sono il Signore tuo Dio, il primo invito è riconoscimi come tale, quindi la prima cosa. Perché io esisto e sono il padrone di tutto, vi ricordate il significato del termine Signore? E quindi l'atteggiamento dovuto dinanzi a Dio qual è? Ragazzi e ragazze carissimi, ecco, l'atteggiamento dovuto dinanzi a Dio è quello della adorazione. Quindi l'adorazione è un atteggiamento interiore che si esprime, come poi vedremo, anche in gesti esteriori, con cui si rende a Dio il culto di latria, quindi il culto assoluto, cioè ti riconosco come il primo è l'unico, colui che tutto mi ha dato e colui che tutto può chiedermi e colui al quale tutto è assolutamente dovuto, soprattutto il culto, quindi noi compiamo degli atti di culto nei confronti di nostro Signore e gli offriamo dei sacrifici a Lui e a Lui solo, come attestazione della sua divinità e della sua sovranità. Cioè, l'offrire sacrifici a Dio, voi sapete che anche i pagani lo facevano, no? Per esempio, molti martiri sono morti ammazzati perché li portavano davanti alle statuette degli dei romani e gli chiedevano di offrirgli gli incensi oppure di fare qualche altro gesto sacrificale rituale dinanzi a loro. E giustamente i primi cristiani si rifiutavano perché non si può assolutamente offrire un sacrificio a un idolo, si commetterebbe peccato grave appunto contro il primo comandamento. Noi sappiamo che a Dio si deve offrire il sacrificio della Santa Messa, l'unico sacrificio a Dio gradito, ma anche tutti quanti i sacrifici, piccoli, medi o grandi, attributo del nostro culto. Quindi il primo sacrificio da offrire a Dio è quello dell'obbedienza e del culto da rendergli, e poi i sacrifici che la Chiesa, scusate, che la vita ci pone dinanzi, l'abbracciare la croce, oppure, questo poi lo vedremo nel corso l'offrirgli proprio dei gesti di penitenza, insomma, o di mortificazione per ottenere da lui delle grazie. Chiaramente in questo rientra anche la preghiera con cui Dio viene appunto pregato e con cui viene adorato. Quindi capite, per esempio, se tu partecipi a un'adorazione eucaristica, compi un atto positivo dipendente dal primo comandamento, perché nell'adorazione eucaristica tu ti prostri davanti alla presenza reale di Gesù Eucaristico, rendendogli appunto attraverso il gesto dell'adorazione eucaristica il culto che gli è dovuto, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, attenzione che l'esame sul primo comandamento è il più importante di tutti, quindi dovrebbe essere condotto con estrema attenzione e con estrema meticolosità. Io vi dico da prete che ci sono moltissimi peccati commessi contro questo comandamento di cui i fedeli non sono consapevoli, e forse neanche voi, cari e carissimi, anzi, giovani che siete nella parte più profonda del mio cuore di sacerdote, tutti, anche se non vi conosco personalmente, e li confessa quasi nessuno. Molte volte escono fuori durante la confessione a seguito di un piccolo aiuto, insomma, che il sacerdote dà facendo qualche domanda. Allora, io vi elenco i principali peccati contro il primo comandamento. Ecco, il primo, che è quello che cominceremo a trattare oggi, è l'uso sacrilego dei sacramenti, soprattutto dei sacramenti che si possono ripetere, cioè l'Eucaristia e la confessione. Ora, rientra chiaramente nel primo comandamento, perché sono chiaramente degli atti di obbedienza e di culto da rendere al Signore, quello di celebrare e di partecipare con gioia ai sacramenti che Gesù Cristo ha istituito per la nostra salvezza e a cui per dargli efficacia è morto in croce, d'accordo? Noi abbiamo soprattutto l'Eucaristia e la confessione. L'uso distorto di questi comandamenti, di questi sacramenti, scusatemi, rappresenta il peccato in assoluto più grave che si possa commettere. Quindi, se uno dicesse qual è il peccato più grave che si può commettere in assoluto, ecco, al termine di questo incontro di formazione, voi saprete subito la comunione sacrilega. Non esiste peccato grande come questo. E non esiste peccato poco perdonabile. Ovviamente, se uno prescinde dall'infinita misericordia di Dio, quanto questo, perché è la cosa in assoluto più grave che si possa commettere. Fare la comunione senza avere le dovute disposizioni. Quindi, poi c'è il rifiuto di rendere a Dio l'adorazione anche esterna che gli è dovuta. Vedremo le irriverenze, quindi i peccati gravi di irriverenza o di impenitenza nei confronti del Signore. Poi ci sono i gravissimi. Il gravissimo peccato del rifiuto di rendere a Dio il doveroso ossequio della preghiera. Vedremo che questi sono i peccati di irreligione, quindi i peccati contro la virtù cardinale della religione, che è la parte, diciamo, più nobile della virtù cardinale della giustizia. Poi ci sono i peccati contro la fede, cioè l'ateismo, l'agnosticismo, l'incredulità, la contestazione delle verità di fede. I peccati contro la speranza, tra cui la disperazione. Per esempio, e i peccati contro la carità con la C maiuscola, quindi contro l'amore di Dio, quindi l'odio di Dio, l'idolatria e anche le pratiche occulte e la superstizione. A proposito di Halloween, quindi, chi celebra Halloween, chi va a qualche festa di Halloween, ricordate che fa peccato gravissimo contro il primo comandamento. Perché entra in contatto oggettivo, a prescindere dalle sue intenzioni, con il mondo dell'occulto. E oltre a fare un peccato gravissimo, come ci ricorda continuamente l'esorcista Padre Amort, apre la porta a Satana. Che una volta che la porta si apre, lui ci entra e una volta che c'è entrato è difficile poi farlo uscire. Chiusa parentesi. Ora, l'uso sacrilego dei sacramenti che si possono ripetere, entriamo subito nel merito, tra cui soprattutto l'Eucaristia, ma anche la confessione, anche se sicuramente non ne parleremo oggi, è purtroppo oggi un fenomeno tristemente diffusissimo. Non è di certo la prima volta che io ne parlo dalle frequenze di questa radio. Se voi mi doveste chiedere cos'è che una delle pene più grandi che ha il mio cuore di sacerdote è essere tristemente consapevole di come purtroppo nostro Signore è bistrattato, maltrattato, è davvero proprio umiliato a volte nel sacramento del suo amore. Le parole di San Paolo, forti e chiare: chi si accosta indegnamente al corpo del Signore, mangia e beve la sua condanna, oggi sembrano essere dimenticate da non pochi fedeli. Allora, se io vi dovessi chiedere quali sono le condizioni per fare una buona comunione, purtroppo adesso non c'è più il catechismo di San Pio X, che una volta era, che aveva il dono, vedete, oggi in questo tempo di confusione, e sapete che il principe della confusione è Satana, tenete presente che Babilonia è un termine che etimologicamente significa proprio confusione. E nella confusione pesca il demonio. Pensate che il grande San Tommaso d'Aquino, quando si accingeva a scrivere la Summa Teologiae, proprio nel prologo della Summa Teologiae, disse che il suo intento era quello di spiegare in modo chiaro e distinto l'intero arco di verità rivelate che sostanziano e che costituiscono la fede cattolica. Perché diceva: non c'è niente di peggio che non avere idee chiare e distinte su alcuni argomenti e non andare sempre nel trito e ritrito, in tutte quante le sciocchezze che oggi si sentono dire, che oggi la gente, anche oggi, durante un incontro con alcuni familiari, si parlava di alcune questioni molto gravi. Qual è la solita cosa che ti rispondono? Ah, una cosa io proprio la credo. Io ho fiducia cieca nella misericordia di Dio. Dio è buono e perdona. Non si dice altro che questo oggi. E voi capite, ammantandosi dietro questa frase, praticamente, di fatto, per la quasi totalità delle persone che la vivono e che la interpretano in maniera strampalata, significa: Dollo, non ti metti a fare troppe questioni, questo è peccato, questo è peccato. Tanto pure se ci stanno i peccati, Dio li perdona, d'accordo? Quindi lascia perdere. Quindi pensate a come Satanasso si è bevuto completamente il cervello della quasi totalità dei fedeli. La dottrina della misericordia, ha detto giustamente, me lo ricordo bene anche in qualche intervento pubblico e ufficiale, padre Stefano Maria Manelli, diventa, se malamente interpretata, un'autostrada per l'inferno a quattro corsie. D'accordo? Ora, il sacramento dell'Eucaristia. Cosa diceva il Catechismo di San Pio X? Che ad immagine della Summa Teologiae fu scritto da questo Papa. Pensate che il grande San Pio da Pietrelcina disse di San Pio X che da quando era stato istituito il soglio di Pietro, nessuno grande come San Pio X si era mai seduto su quel soglio. Quindi pensate alla statura di questo Papa, in alcuni ambienti per la verità oggi non del tutto amato e stimato come doveroso, e pensate anche alla miopia, io ancora non riesco a capacitarmi, di chi ha mandato in soffitta il Catechismo di San Pio X per sostituirlo, insomma, con improbabili testi moderni, la cui fermo restando le ottime intenzioni, insomma, e i contenuti comunque ovviamente conformi all'ortodossia cattolica, ma che però per la modalità con cui sono stati composti non aiutano affatto i fanciulli a, come dire, uscire dal tempo di formazione catechetica almeno con la coscienza di che cosa sia la fede cattolica. Escono da lì esattamente con il nulla totale. Io questo lo constato per esperienza, perché sono anni che faccio catechismo e che faccio catechismo l'ultimo anno, cioè di cresima, e tutti i santi anni non faccio che constatare questa realtà. Tant'è vero che io nella mia parrocchia mi sono preso la responsabilità di riprendere per la prima comunione, per l'ultimo anno di cresima, i testi del Catechismo di San Pio X, con gli effetti che adesso si cominciano a vedere, che almeno escono dal Catechismo, almeno sapendo, per esempio, la cosa che vi sto per dire adesso. Ora, chi è che si può fare la comunione sacramentale? Il Catechismo di San Pio X dice queste testuali e semplici parole: bisogna, uno, essere in grazia di Dio, la prima cosa; secondo, osservare il digiuno eucaristico, e terzo, pensare e considerare chi è colui che si va a ricevere. La cosa più importante, allora, voi capite, il digiuno eucaristico, che oggi è una disciplina molto molto mitigata, è diventato, diciamo, un gesto più che altro simbolico, è un piccolo gesto penitenziale e anche, come dire, di rispetto, insomma, per la presenza del Signore, che però deve essere osservato, un'ora prima di fare la comunione, altrimenti ci vuole la dispensa del parroco per potersi accostare alla comunione, non ci si può autodare la dispensa. Pensare e considerare chi è colui che si va a ricevere vuol dire che dal momento che la presenza di Gesù nell'Eucaristia è misteriosa, questo poi lo vedremo, la preparazione prossima consiste nel cercare di raccogliersi e di ricordarsi che nell'ostio non mi vado a ricevere una caramella, né mi vado a ricevere un simbolo, né mi vado a ricevere una particola o un pezzo di pane. Lì c'è presente Dio in persona. Chiaramente questa cosa va resa presente con dei gesti interiori del cuore, che sono ovviamente i più importanti, ma anche, come vedremo, con dei gesti esteriori. E vi preannuncio che, se Dio mi dà la grazia, vorrei spendere qualche parola circa la comunione sulla mano a questo riguardo. Ma la cosa più importante è essere in grazia di Dio. La comunione non si può fare se non si è in grazia di Dio. Essere in grazia di Dio vuol dire che non devo avere nella coscienza un solo peccato mortale che non abbia confessato, uno solo. Allora, ragazzi, com'è la situazione oggi? Allora, io avevo la mia cara nonna che mi raccontava che quando lei era giovane, cioè negli anni 20, sapete che in Italia andava a messa l'80 o il 90% degli italiani, tutti andavano a messa la domenica, uomini e donne, piccoli e grandi, ma sapete che si faceva nel rito antico la comunione in ginocchio, c'erano le balaustre, d'accordo? Ma voi provate a chiedere chi c'è ancora a vivere, le nonne, se a quei tempi esistevano i ministri straordinari della comunione. Esistevano, non esistevano. Ma lo sapete perché? Perché di quell'80-90% di gente che andava a messa, una piccolissima percentuale si accostava alla Santa Comunione. Perché? Perché essendo la fede dei cattolici di allora ben formata, quindi sapendo bene quali erano i principali peccati mortali che si possono commettere con una certa frequenza, quindi loro non avrebbero avuto bisogno di ascoltare queste trasmissioni di Radio Buon Consiglio, perché sapevano benissimo alcune cose, non osavano accostarsi alla comunione se non si erano confessati. E siccome il sacramento della confessione da sempre è un sacramento ostico, cioè nel senso che gli uomini, non si capisce bene perché, pur essendo un sacramento tanto bello, non si confessano, almeno avevano il pudore ritegno di non andarsi a comunicare. Dietro le balaustre non si è mai visto un laico che andasse a distribuire la comunione. Questa era la situazione di 100 anni fa. Qual è la situazione attuale? Allora, in Italia, diciamo che la media delle frequenze alla messa domenicale, la media nazionale, sta intorno al 12-13%. Ci sono delle punte delle regioni d'Italia dove si arriva al 20, ma ci sono anche delle punte, dei picchi bassi nel nord Italia dove si arriva addirittura al 5%, cioè non c'è nessuno a messa. Ora, avete visto però le liturgie che ci stanno adesso? Le messe da adesso? Cioè, a fare la comunione c'erano praticamente il 90% delle persone presenti, forse il 95%. Sono tutti santi? Cioè, voi capite già la prima impressione, no? Io queste cose me le chiedevo quando non ero prete. Adesso che sono prete ne ho avuto la conferma. Dico, scusate, ma negli anni 20 andavano a messa tutte le domeniche, quindi un peccato mortale in meno. Di bestemmie, la bestemmia era un reato anche nel codice penale, per cui se ti sentivano bestemmiare ti facevano una multa. E se non ricordo male c'era addirittura l'arresto per la bestemmia. L'adulterio era reato, il divorzio non c'era, di figli ne facevano 6, 7, 8, 10 a famiglia, quindi la contraccezione non c'era mai. Quindi capite che i principali peccati mortali che oggi fanno quasi tutti Di rapporti prematrimoniali neanche se ne parlava. Perché io avevo mia madre che era di Roma, non era di un paesino del sud Italia, capite, dove magari uno può immaginare una certa mentalità. Ma mia madre, guai se arrivavi al matrimonio che non eri come t'aveva fatto mamma. Sarebbe stato un disonore enorme. E mia madre me ne raccontava queste cose. Mia madre si è sposata nel 58, non si è sposata nel 1626. Capite? Allora, a quei tempi, peccati mortali, che peccati mortali facevano? Io mi chiedo a quei tempi lì, boh, come non la faceva nessuno. Oggi questi peccati mortali fanno tutti. Rapporti prematrimoniali a tutto spiano, petting a tutto spiano, nudismo a tutto spiano, i figli non li fa nessuno, adulteri a tutto spiano, famiglie separate a tutto spiano, libere convivenze, a me non ce l'ha nessuno, le bestemmie, siamo il primo paese d'Europa a quantità di bestemmie, e vanno tutti a fare la comunione, ci picchia, dico, com'è successo qua? Cioè, se vede che sto piccolo resto che va in chiesa a tutti i santi, non è così, quindi immaginate la mole di comunioni sacrileghe che si fanno ogni domenica, ogni tanto me lo vengono a dire, cioè, perché io magari non conosco, dice guarda Dolonà che si è fatto la comunione quello o quella, ma lo sai, quello è separato e c'ha l'amica dentro casa, dico io che ne so, se lo so chiaramente poi lo chiamo in sagrestia e lo vado a riprendere, ma sapete quanta gente che fa queste cose qui, che dicono ma sì, ma queste cose, ma tanto Dio è misericordioso, ma io mi sento di prendere l'ostia e vado a fare la comunione. Oh, capite? Cioè, questo è un peccato oggi frequentissimo. State attenti, Halloween. La comunione sacrilega è peccato che dà culto diretto al demonio. Culto diretto, ripeto, al demonio. Cioè, non c'è nessun peccato quanto alla comunione sacrilega che dia culto grande a Satana. Voi siete giovani ragazzi, io non vi voglio spaventare, però io conosco bene il mondo di Satanasso. Se voi studiate che cos'è una, sapete cos'è una messa nera? Una messa nera è un insieme di rituali orrendi, evocativi e cultuali nei confronti del mondo del piano di sotto, quindi di Satana e dei suoi satelliti, che raggiunge il culmine nella profanazione dell'ostia consacrata, che durante le messe nere viene compiuta in mezzo a scenari di cui non è opportuno parlare. La Madonna non vuole che nemmeno se ne parli, per quanto soffre nel sapere queste cose. Le testimonianze di persone rare, fuoriuscite da sette sataniche, rispondono che cioè, ci sono dei satanisti che sono incaricati di andare a trafugare le ostie nelle messe, nelle chiese cattoliche, non necessariamente forzando i tabernacoli. E tra l'altro dicono che uno dei giorni più belli della loro vita, almeno in Italia, fu quel 3 dicembre del 1989, mi sembra che era quella la data, in cui la CEI diede il via, col permesso della Santa Sede, di ricevere la comunione in mano, perché almeno tutte le difficoltà che avevano erano completamente cessate. Quindi sappiate che i satanisti hanno come massima forma di attacco diretto a Gesù Cristo e di culto diretto a Satana la profanazione delle specie consacrate, che è atto non diverso da quello che fa una persona andandosi a accostare indegnamente alla comunione. Quindi attenzione, cioè Gesù Cristo ha istituito questo sacramento, certamente lui è felicissimo di entrare nel cuore di un fedele e di uno che lo ama, arde dal desiderio di unirsi all'uomo, ma guai all'uomo che si accosta a lui con l'anima venduta al demonio, perché un'anima che sta non in stato di grazia, ma in stato di peccato, è un'anima che appartiene al nemico, non è un'anima di Dio. Voi non so se siete diventati dentro le chiese. Quanta gente si accosta alla comunione ridendo, scherzando. Adesso che si prende la comunione in mano se la portano a spasso, chiacchierando, i ragazzini che ridono e masticano l'ostia come se fosse una caramella. Poi parleremo di questo qui. Le nostre nonne, state tranquille che l'ostia non la masticavano, gli era stato insegnato perché non si mastica l'ostia. Oppure, finita la messa, nel nome del Signore andate in pace, via! Tutti quanti via! fuori della chiesa, perché sembra che ci sia che ti si attacca la rogna. Cioè, non sapendo che tu fai la comunione, le sacre specie ti restano nel cuore per almeno 15 minuti. Quindi, se tu esci fuori dalla chiesa appena fatta la comunione, e pensate che oggi non si fanno più in quasi tutte le parrocchie le preghiere leonine, né si fa un po' di silenzio dopo la comunione, quindi molte volte, finita la comunione, il prete si sbriga, la benedizione, e tu esci fuori e ti porti a spasso Gesù Cristo nel cuore. Cioè, se ti passasse vicino un angelo, anzi sicuramente il tuo angelo custode sta prostrato vicino a te e tu ti porti in giro Gesù Cristo chiacchierando dovunque, capite? Ecco. Prima di proseguire, ragazzi, permettetemi di dire insieme con voi un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, riprendiamo, diciamo che adesso mi sembra cosa buona a metà delle nostre trasmissioni, ecco, rivolgere un pensiero alla nostra Madre del Cielo, che aiuti me in ciò che dico e aiuti anche le persone che ascoltano, diciamo, a trarne, se c'è qualcosa di buono, i dovuti frutti di santificazione e di conversione. Allora, pensate anche oggi, sapete quanta gente viene da me a dirmi: Don Leonà, io sono andato a messa in parrocchia la sera, mi ero fermato a fare ringraziamenti, è venuto il sacrestano a dirmi: vattene via che devo chiudere la chiesa, oppure, finita la messa, la chiesa diventa un mercato, la gente chiacchiera, starnazza, grida, parla ad alta voce. Se gli vai a dire: scusate, scusi, scusi, signore, io sto un attimo pregando, che sono queste cose, questi atti, questi gesti di devozionismo, eccetera, eccetera. Oggi è ridotta così la situazione. Pensate a un'altra cosa brutta, per esempio, io lo dico sempre, uscii. Mi sembra che in una lettera di Benedetto XVI, adesso non mi riesco a ricordare il titolo, in una lettera dove si parla dell'Eucaristia, scusate che c'è un attimo un vuoto di memoria, il Papa ammonisce che i sacerdoti in occasione. Quando celebrano un funerale o quando celebrano un matrimonio, siccome sapete che ai funerali e ai matrimoni va ammessa gente che non mette mai piede in chiesa, brevemente ricordino le condizioni per accostarsi alla comunione. Perché voi capite, muore mia madre, io non metto mai piede in chiesa, ma c'è il funerale di mia madre, magari sono 20 anni che non mi confesso, che faccio? Non mi faccio la comunione? Ma certo che lo devo fare. Io ho sentito, mi hanno raccontato purtroppo, che quando qualche, non lo so, qualche familiare con un minimo di buona coscienza si è stato seduto, l'ha chiamato il prete dicendo: vieni, vieni, che non ti fai la comunione al funerale di tua madre, ad alta voce. E quello chiaramente si alzerà e andrà a fare la comunione. Quindi, allora, Benedetto XVI raccomandava, dice: scusate cari confratelli, cercate in poche brevi parole di ricordare in queste circostanze le condizioni per accostarsi alla Santa Comunione. Perché sapete quanti sacrilegi che si fanno in questi contesti? Quindi, allora noi dobbiamo sapere una cosa, ragazzi e ragazze carissimi: l'Eucaristia è il cuore della Chiesa. Chi vive bene e si accosta bene a questo sacramento diventa assolutamente invincibile. Cioè, noi abbiamo una forza invincibile, perché se io mi comunico degnamente divento una cosa sola, un corpo solo, un'anima sola, un sangue solo, uno spirito solo con Gesù Cristo, figlio di Dio in persona. L'anima diventa un cielo, c'è un autotreno, una pioggia di grazie che ci inondano, che ci rivestono e che ci rendono assolutamente invincibili davanti al demonio. Questo che il demonio odia tanto l'Eucaristia. Però questo che sarebbe il segreto della nostra forza e di una santità inespugnabile della Chiesa, se Dio non voglia, comincia ad essere trattato come è trattato oggi, diventa un'arma micidiale, il suicidio, l'autosuicidio. Quindi capite perché, a mio modestissimo avviso, tutte queste cose sono frutto di un piano ordito da Satana per toglierci a noi il segreto della nostra forza. Lui diceva: come faccio io a indebolire i cristiani e a vincerli? Devo semplicemente staccargli la spina con la fonte che li rende invincibili, che è l'Eucaristia. Non riesco a portarli tutti via dalla Chiesa, proprio a trasformare la Chiesa in un deserto. Quei pochi che ci restano, farò in modo che il balsamo della vita eterna, così chiamavano alcuni padri l'Eucaristia, diventi veleno. E questo è quello che ha fatto. Ora, tenete presente, vi ricordate, chi conosce bene le apparizioni di Fatima sa che nel 1916, già nel 1916, attenzione, ai tempi di mia nonna, quando la comunione non se la faceva quasi nessuno e quando c'era un senso di riverenza anche per come era strutturata la messa antica, la comunione in ginocchio, il fatto insomma che c'era una coscienza molto più viva del peccato e che alcuni peccati oggi molto diffusi erano molto più rari, pensate che l'angelo del Portogallo nel 1916 apparve ai pastorelli di Fatima con un'ostia sanguinante in mano e li invitò a prostrarsi in atto di riparazione dinanzi all'ostia consacrata, perché Gesù era orribilmente oltraggiato nel sacramento del suo amore. Quindi io mi sono sempre chiesto: ma l'angelo si riferiva a quel periodo attuale o era un gesto profetico quello che stava facendo compiere ai pastorelli? Per quanto ne so, a mio modestissimo avviso, era un gesto profetico, cioè in previsione della grande degradazione eucaristica che, guardate, proprio in quel periodo ha cominciato piano piano a mettersi in moto, lentamente, prima di arrivare a produrre i suoi frutti, perché i nemici sono molto furbi, quindi sono capaci di fare progetti a lunga scadenza. Quindi in previsione di questo gli fecero fare quel gesto di riparazione, capite? Ora, come ne usciamo da questa situazione? Allora, sapete che Benedetto XVI ha indetto un anno, che è il 2012-2013, che è l'anno della fede. Perché il Papa ha indetto l'anno della fede? Perché è assolutamente urgente per tutti i fedeli che si riscoprano alcuni elementi basilari e fondamentali della nostra fede divina e cattolica. Qui, a forza di dire che la fede è un fatto personale, è un'esperienza di incontro con Gesù Cristo, con quello che ti pare, si è esautorata anche la fede. La fede non è soltanto la tua esperienza personale di incontro con Gesù, la fede è un atto di adesione personale ad una serie di contenuti ben precisi che sono le verità rivelate, che tu devi accogliere, fare tue e agire di conseguenza. Capite? Allora, il contorno che si è creato intorno all'Eucaristia indubbiamente ha favorito, e questo ce lo dimostra il Papa regnante attualmente, che Dio lo benedica, Benedetto XVI, il diffondersi di un senso di rilassamento e di perdita della reale percezione di ciò che l'Eucaristia è e di chi l'Eucaristia conviene e contiene. Allora, è ovvio che se tu celebri una santa messa in maniera scellerata, guardate che io ho visto anche su YouTube delle cose allucinanti, cioè domani è il 31 di ottobre, se andate a cercare su YouTube, io spero che siano fotomontaggi, ma non ci credo, cioè sapete che ci sono alcuni posti dove fanno la messa di Halloween, cioè presieduta da sacerdoti, quindi in maschera, con le maschere macabre, cioè tu ti rendi, ma tu vai a celebrare una messa così. Ma la cosa grave è che se dietro l'altare ci sta un prete e pronuncia le formule della consacrazione, quella è una messa valida, capite? Non è una pagliacciata, la messa purtroppo, quella è una messa che chiaramente offende Dio, ma è messa. Figuriamoci chi si va a fare la comunione in quel contesto, capite? Ma senza aggiungere a tanta gravità, Cioè, una liturgia scellerata, una messa celebrata, non lo so, con la musica rock, con la musica beat, con le canzonette, in un clima di dissipazione, l'aver tolto tutti, cioè, adesso le chiese nuove, avete visto come fanno le chiese nuove? Non ci stanno più gli inginocchiatoi, non ci stanno più, non serve inginocchiarsi. Allora, ma se abbiamo appena detto che il primo comandamento obbliga a rendere a Dio l'adorazione che gli è dovuta, io come faccio ad esprimere, noi non siamo angeli, siamo uomini, il fatto che io adoro Gesù. Cosa dice San Paolo nella lettera ai Filippesi? Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Se togli tutti gli inginocchiatoi, ma come faccio io che già è una cosa che non si vede, già devo fare un atto di fede, a rendermi conto che durante la messa si rinnova il sacrificio di Gesù in maniera mistica, sacramentale, ma vera, e che quindi ho lì dinanzi. Quando sto a messa, sto dinanzi al Figlio di Dio che offre la sua vita in sacrificio sul Monte Calvario per la mia salvezza. Ma scusate, ma se uno stesse davanti a Gesù Cristo crocifisso, starebbe lì in piedi a ridere, a chiacchierare col vicino? Cioè, tu staresti così dinanzi a Gesù Cristo? Io ogni tanto ho detto ai miei fedeli, scusate un attimo, no? Se adesso venisse qui Gesù Cristo in persona visibile, quindi alto 1,90 m, biondo con gli occhi azzurri, con un autotreno di angeli e con la Madonna vicino e circondato di luce, tu resteresti tranquillamente in piedi davanti a lui? Magari diresti buongiorno direttore, gli dici così? Penso che chiunque vedesse Gesù Cristo si cadrebbe immediatamente in ginocchio, lo voglio sperare, se non è proprio una bestia o un miscredente, no? Ma scusate, ma quando arriva l'ostia consacrata, non è Gesù Cristo quello? Non è Gesù Cristo? La prassi della comunione in mano, e questo non lo dice Don Leonardo, grazie a Dio ci ha pensato Benedetto XVI, sapete che Benedetto XVI ha revocato l'indulto per prendere la comunione in mano a casa sua, cioè in Vaticano la comunione in mano non è più consentita. Uno dirà, perché non l'ha fatto in tutta la Chiesa? Perché non l'ha fatto in tutta la Chiesa? Perché purtroppo questo gesto, oggi, se facesse una cosa di questo genere, correrebbe il rischio, non ballerino, purtroppo serio per chi conosce un pochino di lavori, di provocare ribellioni, contestazioni e divisioni. Per cui il Papa, pur rendendosi conto che forse è stata, come dire, un'imprudenza, adesso poi vi dirò perché questa è stata un'operazione diabolica, perché non è che i papi si sono impazziti, c'è un motivo per cui questa cosa è nata nella Chiesa e io vorrei dirlo, spero che non se ne abbiano a male, insomma, le suore di Radio Buon Consiglio, perché tutti dicono, ma se la Chiesa lo consente vuol dire che si può fare, sta a fare tutte queste cose, la comunione in mano a destra e a sinistra. Dico, io ho molte riserve sull'uso dei ministri straordinari, ma la Chiesa li consente, ma il Vescovo gli dà il mandato, ma qua, ma là. Allora dobbiamo un attimo capire quello che è successo, perché questa è stata un'operazione, a mio avviso, qui vi dico a mio avviso, quindi io mi sottometto in tutto alla disciplina della Chiesa a cui. E mi rimetto e a cui sono obbediente, però capite che ho la libertà, in quanto fedele oltre che sacerdote, di dare una lettura di alcuni dati oggettivi. Quindi vogliamo parlarne un attimo? Ne parliamo un attimino. Allora, tenete presente, San Francesco d'Assisi era diacono. Ora, San Francesco d'Assisi, che era diacono, la comunione non l'ha data mai a nessuno. Questo lo scrive nelle fonti francescane. Se qualcuno vuole, chieda alla radio, io adesso qui non c'ho riferimenti, ma li trovo immediatamente, ma lo sanno benissimo la radio, che è una radio francescana dell'Immacolata, vi do i riferimenti, li ho postati qualche tempo fa sul mio profilo Facebook, in occasione della festa di San Francesco. Quindi se qualche ragazzo è interessato, va su Facebook, cerca Don Leonardo Maria Pompei, scorre i post e va ai primi di ottobre e vedrà gli scritti di San Francesco, dove dice che solo i sacerdoti toccano e amministrano l'ostia consacrata, perché solo i sacerdoti, nemmeno i diaconi, hanno le mani consacrate. Sulla base di questo c'era il principio che poi San Tommaso d'Aquino formalizzerà, che essendo l'Eucaristia il santo dei santi, quindi Gesù in persona, non può essere toccato da mani profane. Le mani di un sacerdote possono toccarle perché? Perché le mani di un sacerdote, come ben sapete, e San Francesco sempre baciava le mani dei sacerdoti, non per riverenza ai sacerdoti soltanto, ma per riverenza a Cristo, sono state consacrate il giorno dell'ordinazione dal Sacro Crisma, cioè sulle mani dei sacerdoti, anche se voi non le vedete sulle palme, ci sono impresse due croci, e sono ciò che abilitano quelle mani, chiunque sia il titolare di quelle mani e qualunque peccati abbia fatto, a toccare le cose sante. Dottrina di San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologiae. Se uno si legge gli scritti della venerabile Maria di Gesù da Greda, attenzione, venerabile, ho detto e dirò nella trasmissione del 1° di novembre, quando spiegherò come si diventa santi, che quando una persona è dichiarata venerabile vuol dire che la Chiesa, oltre ad aver riconosciuto l'eroicità delle virtù, ha dichiarato che nei suoi scritti non c'è nulla di contrario alla fede cattolica. La venerabile Maria di Gesù da Greda, nel suo best seller Mistica Città di Dio, afferma che la Madonna mai osò toccare con le mani la Madonna, l'Eucaristia. E quando gli apostoli gli dissero: ma che fai, non tocchi con le mani l'Eucaristia, tu che hai toccato in mano il Figlio di Dio, l'hai tenuto nel grembo e l'hai allattato, diceva: io ho allattato il Figlio di Dio perché nostro Signore mi ha detto che dovevo diventare sua madre, ma nostro Signore non mi ha detto che io dovevo diventare suo ministro, che dovevo celebrare la messa, per cui il corpo eucaristico di Gesù, caro San Pietro, lo tocchi tu, io invece da madre di Dio toccavo il suo corpo reale e sono stata anche la prima persona a toccarlo dopo la sua risurrezione. Capito cosa ha risposto la Madonna? Allora dice: ma ci siamo impazziti? Che è successo? Questi sono gli antefatti del Medioevo, molto prima, perché i modernisti oggi dicono: ma anticamente i primi cristiani prendevano l'ostia con le mani. È vero o non è vero? È vero, d'accordo? Ma perché? Ecco, le motivazioni sono molteplici. Numero uno, una delle principali era questo, che fino al IV-IV secolo, sapete, che la Chiesa era sotto persecuzione. Allora, ai cristiani, ai fedeli cristiani, era consentito non soltanto di toccare l'ostia con le mani, ma di portarsela a casa e di custodirla chiaramente in maniera riverente. Perché? Perché se arrivavano le guardie e i pretoriani ad arrestarti per portarti il giorno dopo in qualche circo ad essere sbranato, voi capite che non erano cose da nulla, prima di partire non c'erano come adesso le chiese, i luoghi di culti, o che chiami il prete che ti porta la comunione, non sapeva neanche chi era uno il prete, capito? O dove andarlo a ritrovare. Ti fai la comunione per avere la forza di affrontare il martirio, capite? Ecco, quindi, che succede? Appena terminato il periodo delle persecuzioni, i papi in persona, sono tutte cose documentabili, hanno cominciato a revocare sempre di più e a sconsigliare questa cosa per gli incredibili abusi che in continuazione succedevano, soprattutto per la perdita continua dei frammenti e quindi dei sacrileggi e delle profanazioni oggettive che venivano fatte contro l'Eucaristia. E poi gradualmente, anche crescendo, capite la percezione, perché la Chiesa ha sempre creduto che nell'Eucaristia fosse presente Gesù Cristo, d'accordo? Però dovete anche comprendere che nel corso del tempo la fede si raffina, cioè che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia ci abbiamo sempre creduto, sempre, però come è presente Gesù nell'Eucaristia? Cioè la migliore sistematizzazione della modalità di presenza di Gesù nell'Eucaristia l'ha fatta San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino è vissuto nel 1200, capite? Ancora, chi è il sacerdote? Quindi, quali sono i poteri strettamente sacerdotali, distinti da quelli da laicali? Cioè, i sacerdoti sono sempre stati, i presbiteri, i vescovi e i diaconi sono già attestati nelle lettere del Nuovo Testamento. D'accordo? Però se leggete le lettere di San Paolo, San Paolo scrive: il vescovo non deve essere sposato che una sola volta. Lo scrive San Paolo, non vi voglio gettare in confusione. Voi sapete che i vescovi non si sposano oggi nemmeno nelle chiese orientali dove ai preti è consentito sposarsi, ma una cosa che è comune a tutte le chiese che hanno conservato la successione apostolica è che il vescovo non si sposa. Adesso, come mai? Allora, i vescovi ci sono sempre stato, ma diciamo ciò che costituisce la dottrina globale sull'episcopato è stato gradualmente approfondito nel corso della storia. Questo non deve stupirci, perché Gesù nel Vangelo ha detto: io vi manderò lo Spirito Santo e vi guiderà alla verità tutta intera. Quindi il dogma è sempre lo stesso, ma nel corso della storia cresce la comprensione. Quindi tu non puoi dirmi: siccome nel secondo secolo facevano la comunione in mano, questa è la cosa migliore, perché è tutto da dimostrare. Perché è vero il contrario, proprio siccome nel secondo secolo facevano questo e poi si è fatto diversamente, questo attesta che non era la cosa migliore, anche se a quei tempi andava bene per il grado a cui la coscienza ecclesiale era giunta in quel momento. Spero di essere stato chiaro. Allora, così arriviamo alle grandi formulazioni di San Francesco e di San Tommaso. San Francesco, prima che campasse e che vivesse per Padre Pio, era ritenuto da non pochi il più grande santo della storia della Chiesa. Adesso se la contende, a mio avviso, con San Pio da Pietrelcina, ma stiamo lì, insomma, no? San Tommaso è indubbiamente il più grande teologo che ci sia mai esistito. Con tutto il rispetto, non me ne vorranno i francescani dell'Immacolata, per il grande e beato Giovanni d'Unscoto. Capite? Indubbiamente San Tommaso è colui a cui la Chiesa Cattolica di fatto ha sempre dato il massimo credito. Alcuni dogmi sono stati scritti dal Concilio di Trento semplicemente facendo copia e incolla con delle cose scritte da San Tommaso nella Summa Theologiae. Questo è un dato di fatto, capite? Allora arriva il grande Martin Lutero, ovviamente sto usando un eufemismo, e sulla base del suo sfascismo ecclesiale, del fatto che la Chiesa non ha capito niente e che lui aveva capito tutto, ripristina la comunione in mano. Il primo a farlo è stato Lutero. Fratelli e sorelle carissimi, Lutero è stato il primo a rifarlo. Capite? Perché l'ha rifatto? Perché non ci crede? Perché per loro celebravano la cena del Signore, di fatto riduceva la presenza dell'Eucaristia, anche se all'inizio sembrava crederci almeno ad una presenza personale di Gesù, almeno limitata al rito, poi di fatto i luterani non credono nella presenza reale e, avendo tra l'altro rotto la successione apostolica, non celebrano una vera messa. Per cui, nella pseudomessa protestante, non ci può essere la presenza reale di Gesù perché non c'è un sacerdote che abbia conservato la linea apostolica che consacra. Quindi, nell'Eucaristia che celebrano loro, quella è veramente un simbolo. Quindi, ha voglia a toccare con le mani, tanto tocchi un pezzo di pane. Capite? Ovviamente la Chiesa ha sempre avuto somma ripugnanza di questa prassi ed ha continuato a mantenere la tradizione antica di ricevere la comunione in bocca e in ginocchio. Ora che succede? Arriviamo ai tempi, agli anni 60, dove c'era tutto il fermento di questa riforma conciliare, eccetera, eccetera. Nessun documento del Concilio Vaticano II dice di prendere la comunione in mano. Io mi ricordo, arrivo in una parrocchia dove mi trovo, c'era una persona, una super cattolica. Io da subito ho cominciato a manifestare alcune perplessità, e questa viene da me a dirmi: come ti permetti di parlare contro la comunione in mano che sta scritto nel Concilio Vaticano II? Dico: sorella cara, con tutto il rispetto, non mi fai peccati di superbia, io sono dottore in teologia dogmatica. I documenti del Concilio li ho letti tutti, dalla prima all'ultima riga. Prendimi il testo dove sta scritto nel Concilio che la comunione deve essere ricevuta in mano. Nel Concilio c'è scritto che la messa deve essere celebrata in latino, nel Sacro Santo Concilio. Guarda un po', se vogliamo essere proprio meticolosi. Quindi, ancora sto a aspettare chiaramente che mi porti al testo dove stava scritto che la comunione si poteva ricevere in mano. Allora, che cosa fanno? Alcuni scienziati del nord Europa, sul fatto che dovevamo tornare alla Chiesa delle origini e che una delle idee balorde che facevano passare è che la Chiesa per 2000 anni si era imbastardita e aveva perso lo smalto, e adesso abbiamo recuperato le fonti e la Bibbia, e i padri della Chiesa avevano letto da qualche parte che i primi cristiani veramente facevano la comunione così. Ci sono degli scritti anche di San Cirillo, non mi ricordo se di Gerusalemme o di Alessandria, che parlano, e hanno cominciato abusivamente a celebrare le messe prendendo la comunione in mano, senza permesso di nessuno. Allora, che succede? Questa cosa arriva a Roma, dove c'era Paolo VI. E Paolo VI, per essere sinceri, il suo primo intervento fu un intervento di severa riprovazione. Disse: non è consentito per nessun motivo, smettetela di fare questo. D'accordo? Ora, che è successo? Qui, secondo me, è stato un errore di valutazione, d'accordo? Che non tocca la santità della persona e del ministero che, siccome questi continuavano a fare questa cosa, di fatto il Papa si è trovato dinanzi a delle disobbedienze sempre più diffuse, perché poi il male purtroppo. Dice: che facciamo? Allora, la prima volta già ha messo un freno. La seconda volta ha detto: guarda, facciamo una cosa, per evitare di creare una situazione di disobbedienza di fatto, limitiamo questa cosa. Quindi fece un primo decreto, un primo provvedimento dove diceva: la comunione in mano non si deve prendere perché è la forma normale, dice, però se proprio una comunità di fedeli ha questo desiderio, purché sia una piccola comunità, purché avvenga raramente, purché ci siano persone preparate, purché il sacerdote faccia la massima attenzione al rispetto per le specie eucaristiche, di questo tenore era questo provvedimento, dice, allora una tantum può essere concesso. Ecco qua, capite? Questo era quello che era stato detto. Il Papa ha dato il permesso e questa ha cominciato a diventare prassi generalizzata. Che è successo? A quel punto la conferenza episcopale ha chiesto un indulto formale e, avendo creato questo precedente, è stato dato. Che è successo poi? L'hai dato una conferenza episcopale e ha cominciato a chiedere un'altra e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra. Fino a quando non è stata diffusa in tutto il mondo, creato il precedente. Vedete che è stata un'operazione satanica? Quindi non è che il Papa si era impazzito e voleva fare una cosa di questo genere, ha creduto bene di porre un argine ad una situazione di grave disobbedienza e abuso liturgico che si era creato, non volendo e non sapendo che purtroppo fare quella piccola apertura è stato come il cavallo di Troia, ha fatto entrare dentro la Chiesa gli invasori. E una volta che tu apri questa cosa, adesso come fai a tornare indietro? Capite? Avete capito che tipo di operazione? La stessa cosa è successa con i ministri straordinari. Cioè, è vero che San Francesco e San Tommaso dicono che l'ostia la tocca soltanto il sacerdote, però immaginate una situazione straordinaria. Pensate in Africa, per esempio, dove a volte ci sta un prete per migliaia di chilometri quadrati di territorio. Ah, magari un prete può recarsi in una parrocchia una volta l'anno. Allora, ci stanno due possibilità: o in quella parrocchia fanno la comunione una volta l'anno, oppure quella volta che il sacerdote va, non lo so, consacra una quantità massiccia di ostie e delega una persona degna a dire: senti, dinanzi alla necessità, anche San Francesco diceva che non c'è legge, in una situazione di necessità così estrema, eccezionalmente Nostro Signore chiuderà un occhio, non è un dogma di fede, fai questa cosa. Ma capite che un conto è una cosa di questo genere? Un conto che tu, la domenica, per non dare, per fare in modo che la messa duri 3 minuti di meno, ci sono quattro ministri straordinari a Franca Pietà a dare la comunione. A voglia poi, questa è una prassi abusiva. I documenti ecclesiali sono tornati continuamente, c'è la redenzione sacramentum e tante altre cose, a dire: è un abuso, non va bene, non è motivo sufficiente che la messa duri 2 minuti di più per mandare in giro ministresse e ministri a dare comunione a destra e a sinistra. Ma nessuno lo osserva, perché purtroppo la mentalità che si insinua è: permessa questa cosa? Se è permessa, si può fare senza alcuna regola. Capite? E mo ci ritroviamo in questa condizione. Capite? Di una prassi che ormai è considerata normale e purtroppo viene fatta passare così, ma che non è affatto normale, perché la mente della Chiesa continua ad essere quella di sempre. Tant'è vero che Benedetto XVI ha ritirato l'indulto a casa sua, e se avete visto le messe di Benedetto XVI, lui dà la comunione in bocca e in ginocchio. Perché? È evidente, perché è la forma più adeguata per esprimere a Gesù l'adorazione che gli è dovuta, ma anche per rinnovare in noi la coscienza di chi è colui che sto a ricevere. Io non vado a ricevere una caramella. Ecco, caramella che tra l'altro, e concludo, che il tempo sta per finire, non va masticata come se fosse una gomma o una caramella. L'ostia non si mastica. Voi direte: perché, Don Leonè? E perché te lo dico subito? Sant'Agostino, quando parla dell'Eucaristia, dice queste parole: seguitemi. Stai attento che quando ti fai la comunione tu ricevi un cibo, ma mentre quando ti siedi a tavola il cibo che ricevi diventa te attraverso la digestione, tu ti mangi un piatto di pasta. Ti va nello stomaco, viene trasformata in grassi, in proteine, in energie e tra simili, e quindi quella pasta di fatto diventa Leonardo dopo che te la sei mangiata. Ma con l'Eucaristia succede il contrario. Tu non ricevi Gesù perché Gesù diventa te. È un cibo spirituale quello. Ma tu ricevi Gesù perché tu diventi Gesù. È il contrario. Quindi, uno. Ti ricordi che questo è un cibo spirituale, pur essendo legato a un segno concreto, evitando di masticarlo. Primo motivo, quello teologico. Poi c'è anche un motivo sostanziale, che se tu mastichi l'ostia e ti rimane un frammento anche minimo di ostia consacrata attaccata ai denti, perdonatemi l'esempio un po' brutale, quando ti vai a lavare i denti, cosa che spero tutti facciate, sputi Gesù Cristo dentro il lavandino, punto e basta. Se non ti si è consumata quell'ostia, capito? Indubbiamente non è cosa molto riverente, d'accordo? Indubbiamente. Quindi è altamente preferibile evitare di compiere questo gesto. Tenete presente che quando fu autorizzata la comunione in piedi, anche questo l'ho postato su Facebook e si trova nel sito della mia parrocchia, perché alcuni parroci sono un po' troppo zelanti. Quando la Chiesa italiana fece la scelta di ripristinare la processione eucaristica, lo fece alla condizione espressa che restasse diritto dei fedeli comunicarsi in ginocchio. Per cui, se un sacerdote, se voi vi comunicate in ginocchio, come vi esorto tutti a fare, e il sacerdote vi fa alzare, alzatevi per obbedienza al sacerdote. Ma finita la messa, andate in sagrestia e ditegli: Padre, stavolta mi sono alzato perché io la riverisco e l'obbedisco. Però sappia, e glielo farò leggere, che c'è un decreto della congregazione del culto divino che afferma che è mio diritto adorare il mio Signore mentre lo sto ricevendo. Quindi non lo faccio una seconda volta, perché la seconda volta non mi alzerò, perché lei non può, come dire, inibire un mio diritto. Un sacerdote può rifiutarsi di dare la comunione in mano se giudica che non ci sono le condizioni, vede uno che ha le mani lerce o che ha le mani sudate o se si accorge che c'è pericolo di profanazione. Questo sta scritto nella Redemptionis Sacramentum, ma un sacerdote non può rifiutarsi di dare una comunione in ginocchio. Questo ricordatelo e se volete il documento andate sul mio profilo Facebook perché anche questo l'ho postato, oppure sul sito della parrocchia www.parrocchiasanmichele.eu, ancora in home page c'è in rosso, perché me l'hanno chiesto, un link diretto a questo documento che potete portare ai nostri cari confratelli perché se l'avessero dimenticato ricordino qual è la mente della Chiesa perché si dia all'Eucaristia il culto che gli è dovuto. Auguro a tutti di fare una santa guerra ad Halloween e di celebrare una santa festa di tutti i santi. Se volete ci sentiamo la settimana prossima, vi benedico tutti, Ave Maria.